purtroppo sì. Purtroppo può succedere a chi? Magari ai praticanti, probabilmente. Ma io devo dire, l'ultima volta, l'ultimo intervento che mi hanno fatto, a me mi hanno fatto la lombare per addormentarmi, e devo dire che ci hanno tentato più di una volta di infilare l'ago, ma se era una praticante, ma c'era di fianco, c'era anche il dottore, la dottoressa o cosa era, anzi erano in due che la controllavano per filo e per segno, perché si sa, è una grande responsabilità, purtroppo quando ti tocca una schiena non si sa mai cosa può succedere. Va bene, dai, pensate che vada sempre bene, quello che è importante. Avanti Tony. Cappa, io posso dire la verità, avevo paura perché, ripeto, mai avuto un'operazione in vita mia, mai a un'anestesia generale. Posso dirti una cosa, sono rimasto meravigliato, soddisfatto e contentissimo, perché quando è messa l'apparatura, tante cose che stavamo facendo, ti ho detto all'anestesista, ma questa è l'anestesia, ha detto no, pronto. Come ho detto queste parole, io non mi sono addormentato. E come ti ho chiuso gli occhi, e poi sentivo Antonio, roba di 1 o 2 secondi, mi sono svegliato, sì, tutto fatto, andiamo in camera, e capita. Certamente non sono profondo, io ho già un'ora in sala operatoria e quasi un'ora, diciamo che stavo aspettando passare l'anestesia e poi mi hanno svegliato. Bello veramente, non me l'aspettavo. Sì, anch'io mi ricordo la prima anestesia che feci, quando ho avuto intervento alla gamba, ho avuto una frattura tibia e pedro, mi hanno inserito praticamente un ferro dal ginocchio, quindi mi hanno dovuto bucare il ginocchio per infilare questo chiodo dentro la tibia. Io al ginocchio non c'avevo niente, altri interventi, cioè in altri posti, li facevano con un taglietto proprio al limite della frattura, e una placchetta, due viti e via, dai. Si allineava l'osso, invece questi a Sassari mi hanno bucato il ginocchio e mi hanno infilato questo ferro. E mi ricordo che parlavo con i chirurghi, con gli anestesisti, e c'erano tutti i ferri di varie misure, e poi basta, mi ricordo questo sapore nella gola e poi mi sono addormentato subito, e poi mi sono risvegliato a nausea, mi ricordo, in sala risveglio. Chi è che vuole entrare? Anche io ho avuto stessa cosa, però non anestesia generale, locale. Tibia e poi non è fratturato con l'incidente che la macchina l'ha messo sotto il motorino, però mi hanno fatto il chiodo nel tallone e mi hanno messo il trapano sul petto prima di bucarmelo, capito, con questa punta lunga, e sono stato 15 giorni con la trazione, poi ingessato col chiodo, accorciato il chiodo che mi hanno messo, ingessato, e poi insomma ne ho passato un po'. Mi hanno pagato l'assicurazione, un bel po' di soldi, me lo ricordo, lì sono nel 73 che sta parlando. Sono altri tempi. Chi è che vuole entrare? Nessuno. Ok, avanti Giulio. Ok. Purtroppo sono cose, e meno male che esistono con la tecnica di oggi, si risolvono. Ad esempio, mio fratello da poco, qualche mese fa, quante saranno? 3-4 mesi fa, dai, avevano operato il femore, lì l'hanno messo l'innesto, non so come si chiama, cosa fare. E poi successivamente le hanno fatto l'operazione alla spalla, 3 buchi nella spalla, perché non poteva più sollevare il braccio. E devo dire, però quello gliel'hanno fatto a Cagliari, sempre lo stesso medico. Va bene, perché dal braccio ancora un po' di collo, come si dice, per cui però pertanto è contento che l'hanno aggiustato, senso lì, contento in quel senso, che l'hanno aggiustato. Vabbè, purtroppo sono cose che spiacevoli, invece certe cose, però, come ho detto, siamo sulla terra e tutto è possibile nella vita. Avanti Franco. Tonino. Sì, ti stanno mettendo una portante, Giulio, ti coprono un po'. Chi è, avanti. Guarda il messaggio che ti ho mandato, confermamelo. Riprendi Franco. Aspetta. Sì, confermo anch'io che c'era qualche portantina sotto. Non so se c'è ancora. Giulio, confermi? No, io non l'ho sentita, stavo parlando, dunque non l'ho sentita. E sarà il solito deficiente che tutti i giorni la sera se la prende con noi, un po' con tutti, per cui evidentemente non deve essere molto sano di mente. Ancora portante c'è qua? No, adesso no, però sappiamo che c'è le 7 da lavoro, dai. No, Claudio, negativo, molto meno, diciamo. Ok, vabbè, ok, continuate, mi serviva sapere quello, no, Tony. Ok, ora Giulio me lo copriva un po', mi dà fastidio. Porca vittoria, Franco, dipende. Ma deve essere in zona mia, comunque, da segnale, queste parti qua. Pronta, Giulio, salveva. Ciao, un cavaliere che si è affacciato. No, a me è massa come portante, capito? Giulio purtroppo non è a Sassari fuori, quindi io senz'altro. Che zona sei tu, Fra? Io sono qua a Sacro Cuore, dai, Monte Basso. Allora ti arrivo bene a te, non c'è bisogno, non penso che riesca un bambino. No, arriva forte. Senti? A te hanno aumentato qualche supportantina. Santiago 9:20 la portante. Giulio 9:40. Lo so, purtroppo è così. Arriva sempre quello che la sera non sa come fare, allora cerca di non prendere l'anima alla gente. Vabbè, lasciamolo fare, vai. C'è ancora la portante qua. No, negativo, adesso ha fatto da bravo. Ciao Marino, scusate, ciao Franco, ciao Torino, ciao Claudio, ciao a tutti, dai, ci sono ascolto, e dove sono ancora, 9:40 Giulio, stavo arrivando. La portante ti sta arrivando a te, 9:40? Sì, 9:40, ti sono passato, sì. Addirittura, allora è dalle parti tue, capito, mi sembra strano. Mi sembra strano, 9:40 da te, 9:20 da Tonino. Cosa vuoi dire? E da te Fra, com'era? No, non è possibile che sia delle parti sue, perché a me Marino no, mi arriva qui, se un segnale basso, 3:05, invece la portante qua è 9, quasi 9:30, 9:25. E a me mi copre Fra. Sì, copre quasi tutti qua. Perciò che dico deve essere qua in zona, magari una zona alta, che qua arriva bene però Aspettate un secondo. Parlando da Muros. Chi è che ha parlato di Muros? Beh, aspettate un attimo che è entrato Gianni Capri 2. Sì, Gianni è sempre la stessa, però sicuramente con qualche altro apparato, Sicuramente, il segnale è sempre quello qua, quindi non c'è problema. Se la mette anche a me, ditemi se mi sta coprendo, così. Chiudiamo la trasmissione, non se ne parla più, ok? No, adesso no. Comunque c'è gente che è già uscita in macchina qua a controllare. Stiamo tranquilli noi. Claudio, di Muro, ci sei? Sta parlando Gianni Capri, aspetta. Anche qua c'è un po' di difficoltà io ad ascoltare. È un casino, quindi io se continua vi lascio, perché non ho voglia più di bisticciare con nessuno. A te Tonino il cambio, dai. Ciao Gianni, aumentare qualcosa, un attimo. Ciao Gianni, ti ringrazio, saluto neanche al tuo collega familiare. Ripeto, se mi disturba io posso aumentare la giornata, perché dovrei chiudere? Ci sono gli amici qua in canale, cioè entro poco, la volta che entro poi una portante e si ravvigliano le luci. Se uno c'ha le palle devi entrare e dire sì, sono io che sto mettendo la portante e gli posso fare la visitina a forse schiaffutti, ma che non è rompi gli scatoli, non è che si ravvigliano in curva. Mi dai, già lo beccano, ma come mai a Claudio non lo sentivo più, Salviero? Cosa? Come mai mi è sparito Claudio da Muro? Prima lo sentivo, anche se è un segnale basso, adesso è proprio zero. Ha cambiato qualcosa? Sì, sta provando un baracchino più piccolo, capito? Quindi ancora non ha agganciato. Però se c'è la portante è un casino, ragazzi, non fa modulare, dai. Spero che a me non mi copra, io sto andando col gas, c'è la potenza della radio, nessun amplificatore collegato, quindi Tony, mi senti tu, sì? Una bomba, per quello. Aspetta un attimino, già la cosa. Vediamo un po'. Va bene così, Claudio, come sono? 9,25, sì, avevi la potenza bassa, Tony, lasciala così adesso. Speriamo che non la rompa le palle, se non sarà via dolce mia. Allora, adesso, quando usiamo un altro, noi, faccio le gambe. No, a te non ti copre, Tony, tu passi alla grande, non so io, ma tu passi alla grande. Anche tu passi, Claudio. Adesso passi anche tu, Tony. Allora mi chiedo a te, scusa, che io devo aumentare di potenza per poter passare, ma è ucciso che... Sì, adesso passi, adesso ci rimane Giulio, attacca anche tu, Giulio. Ehi, c'è poco da attaccare, guarda, io non lo so se passo, però se da quelle parti lì la portante è difficile che io riesca a passare. Tonino, la portante c'è? Adesso no. Ok, vabbè, dai, vediamo un po' se farà bravo, se non pazienza, cosa vuoi che ti dica? No, non me la prendo per quello io. Marino! Giuro, adesso già sei a posto, dai. Adesso va benissimo, giù. No, sto facendo qualcosa, scusate, è solo per quello, arrivo in ascolto e mi arrivava una cosa importante, 9.40, 9.35, boh, non ho capito, che stupido. Ok, giù, riprendi, scusate, riprendi Giulio. Ok, Marino, ma adesso non mi copre. Dica a te se ci dovesse ritornare alla portante, non mi copre. Ma come fa a coprire, scusa? Sei sotto casa, giù, vai tranquillo. Ma Claudio, chiedo cento, sì, arrivo a più forte di prima. Se la metto, non lo so, non la sta più mettendo, questo non te lo posso dire, come che avete sentito qua. Tu mi sei messo un po' di birra, avessi messo un po' di cosa, non è che posso rispondere, non è che me ne faccio un problema, mica mi devo aumentare la stazione per qualche scemo che mette la portata, mi ha fatto a me. Avanti, Spalviero. Sì, ma infatti, cioè non bisogna dare retta, qua io vi sento un po' tutti, quindi no, non c'è problema, dai. Se a me mi sentite va bene così. Ciao Marino, buonasera, ben ascoltato. Avanti Giulio, stavi dicendo? No, stavo chiedendo se mi sentivi con la portante, a Franco stavo chiedendo se mi sentiva con la portante, tutto lì perché ho cambiato o qua. Sei al limite, sì. Però leggermente più forte la portante, però se non parla ascolto, ti ascolto di radio un po', dai. Cosa ci vuoi fare? Non so, purtroppo io sono fuori e allora lui se ne approfitta, pazienza, dai, facciamolo fare. Claudio da Muro, ti sento più basso del radio, il segnale più o meno è sempre quello, però ti sento più basso del radio, vai. Ok, 9 più 20 qui, quasi di cosa, 9.19, una cosa del genere, dai, quasi 9 più 20, una portante. Grazie, sei proprio bravo, sei proprio una persona come si deve. Vabbè, dai, lasciamolo illudere. Avanti, Tonino. Non ti ho fatto niente la portante, infatti tu hai sopravvolato automaticamente a chiedere il cilindro perché c'è la portante e non lo sentivi più, però la portante a te non ti fa niente. Va bene, dai, io vi saluto, sono già le 7:30 quasi, 7:27 minuti, io vi saluto, dai. Ciao Franco, grazie per essere entrato a fare quattro chiacchiere con noi, sei sempre un amico, alle prossime, è un piacere sempre di ascoltarti. Ciao Claudio di Sassari, ciao Claudio di Muro, ciao Tonino, ciao Marino e ciao Natalino se sia d'ascolto. Salutoni a tutti, io vi passo il microfono, ascolto il vostro pinolino e dopodiché chiudo. Avanti Franco. Sì, sì, piacere è tutto mio, anche a me fa piacere sempre sentire brave persone e anche competenti soprattutto. Un abbraccio e buon tutto anche per le cose che devi fare, un bocca al lupo per tutto, dai, avanti Sparviero. Importante c'era? No, negativo, forse si è spostato. Ciao Giulio, comunque Moncoretti, mi approfitto che c'ho il microfono in mano. Ciao, sta bene Moncoretti, non carica batteria, salutami il cuore. Avanti Sparviero, sei entrato? Si è parlato in due. Avanti Claudio di Muros. Di nuovo, ciao a tutti, grazie a voi, ci sentiamo, dai. Per quanto riguarda l'importantista, ricordati che non sto chiudendo perché mi stai facendo, perché mi stai dando fastidio, sto chiudendo perché ho cose da fare, se no avrei potuto anche continuare, perché la tua portante non era così significativa. Buonasera a tutti, ciao Fra, riprendi. Scusa Fra, la stessa cosa aggiungo io, dai. Più che fare qualcosa ho poche cose da fare, ma mi dà fastidio continuare a questi livelli. Vi saluto tutti, buon proseguo di qua, ciao per chi prosegue, rimango in QRX qua in stanza ma non riprendo, ciao ciao. Ciao Claudio, mi dispiace, l'ho detto stasera entravo a fare un po' di corsia, stavo agli amici, dove c'è poco fare, c'è sempre lo scemo del villaggio. Buon politi, dai, buon carica, buona passeggiata con Cagnolino, dai, Cagnolino, Cagnolone. Ciao anche a te, chiudo il girito, ben sentito, salutami Gianni e la tua Grichellona e il tuo Parallelo. Starmi bene, alle prossime, se mai, se ci siete aspettati, mi fa piacere. Avanti Franco. Sì capo, anch'io saluto Claudio di Muros e anche Claudio che in QRX qua. Purtroppo, come dice, la mamma dell'imbecille è sempre incinta, ne sforna un bel, a gran tubare. Ho capito che stai chiudendo anche tu, Tony, sì. No, ancora un po' rimango, dai, 5-10 minuti e poi anch'io chiudo, però un po' ti faccio compagnia. E questo deve essere nato 2 centimetri più in basso. Non è un parto normale, è un parto anale, così intendi? Per carità, comunque te lo sembra bene, sì. Sì, sì, c'è una bomba qua. Speriamo di non scoppiare. No, in quel senso, dai. Marino, c'è ancora Marino, blu? Franco, sono a sopra, faccio qualcosa. Ciao Tonino mio. C'è una bomba pure qui ottava, vai tranquillo, già ti lasciamo bene. Come ti senti? Meglio, sì. Papa, Marino, ben sentito. Anche tu non scherzi, 9, quasi 20, perfetto, 25. L'importante è sentirci. Okay, anche tu 9, quasi 9:18. La radio è 5 perfetta, ottimo qui ottava. E ok dai, sto saldando e sto facendo qualcosa, veloce, poi me ne vado sopra. Ciao Tony per sentire, ciao Franco, ciao Tony, tutti gli ascoltori per me QRT, dai, rimando in ascolto ma chiudo esattamente. Ciao anche a Giulio. Riprendi Tonino, dai, ciao. Capo Marino, ciao, ben sentito, saluto Corea, e mancare che non lo fai, alle prossime, avanti Fran. Volevo chiedere un controllo a Marino se non ha già chiuso, Marino. Santiago 9, radio 5 perfetta più ottava, fra. La radio è ottima, bella, pulita, limpida. Aspetta che provo a abbassare la potenza, vediamo un po'. Prova. Vedi un po' adesso quanto ho perso. 7, la radio è ottima. Marino, quanto ti sto arrivando giù da te nella Bassa Valle? Bassa Valle 9:22, Claudio, la radio c'è bisogno di 12 e c'è una bomba. Ah, va bene, dai. 8 watt, 10 modulati del Galaxy già va bene. Tu scegli lo stesso 920. Dai che mi vesto, mi preparo per portare il cane, sono qua. Tony, riprendi. Capo, d'accordo, capo. Andò bene, questo qua. A me, ha maggior ragione che molte volte non voglio entrare neanche in frequenza. Entro varie volte. Tanto mi viene voluto di fare un consiglio con gli amici. Un casino. Famicina, cara. Se invece lì sera venuto con la... Questo posso dire. Là, non voglio parlare male, ma alle dita. Così la pompata non la metteva. Forse la meglio. Avanti, fra. Come si dice, le mani che tu mi leggi, tu? Le mani che tu mi Breckele. Avanti. Sì, ciao, buonasera a tutti, ho sentito Marino di Sugita, Franco, Tonino, Claudio e poi non so chi ci sia. Chi c'è oltre che le ti ho nominato? Oh, ciao, vabbè, mi sa che voi, c'è Claudio in stand-by, Tonino, diciamo c'è nessun altro, Natalino è sparito, altri nomi non elenco qua, sì, c'è anche Marino che stava facendo delle saldature, Claudio da Muro credo che abbia chiuso. Avanti, Tony, per i saluti. Capa, ciao Romè, mi hai sentito? Non può mai po', dai. Non troppo tu, ma troppo mia. Avanti, Romè. Ehi, anche io un po' che non ti sentivo, infatti ho detto, cosa è successo Tonino, il grande Tonino, dai. Dai, non c'è problema, dai. Importante ascoltarci ogni tanto, dai, fa sempre piacere. E avanti, chi c'era poi? Ho nominato... hanno fatto con le T, con X, c'era l'importante, qui sono tutti scappati, già. Cioè, Claudio l'ha fatto partito giustamente, non vuole così, ha detto no, chiudo. Devo fare cose, eccetera, eccetera. Giulio lo stesso, devo fare cose, chiuso. Marino, corretti, sono rimasti voi, io, Franco e tu, Romè. Oh, beh, ciao, che mi sto preparando per portare il cane. Ciao, un abbraccio, a dopo. Ehi, ciao, Cla. Dai, continuate, vai, Fra. Sì, sì, no, mi è scomparso poco fa il segnale, Roberto, hai mollato il microfono in anticipo? Ho cambiato radio adesso, dai, sono andato con l'altro. Questa è K. Eia. È una garanzia, Sta andando bene, dai. E a te, Roberto, sotto bene ti arrivo. Cos'è detto, Tony? Se ti arrivo, sotto bene. Sei oltre 9 più 20 qua. Quindi, per il poco vento che c'era, dai, l'antenna, non l'ha buttata giù. Ma ti ha messo l'antenna nuova, Tony? No, no, ho sempre quella. Manco radiale e basta, volevo solo piazzarlo. Quando sto meglio, perché adesso ho ancora i punti. Anche Franco sta arrivando bene, avanti Fra. Sì, sì, no, anche tu arrivi bene, arrivi fortissimo qua. Vabbè, Claudio è arrivata una bomba qua. Tu sei 9,20 spaccato, Tonino un peluzzino un po' più di te. Io posso aumentare un po' ancora, aspetta un po'. Così ho al massimo, quindi così non posso. 9 e più 25. Io sono fuori sassa lì, ragazzi. Più o meno, tu adesso questo passaggio un peluzzino più di Tonino, Franco, ma a livello millimetrico, no? Non c'è differenza, sono tutti e due segnali molto forti. Sì, no, abbasso, perché intanto non serve a niente. No, tu conta, la mia antenna è sempre in terra e non è sul tetto. Chissà se avrò l'occasione di provare l'ebbrezza di un'antenna sul tetto. Tanto ti ascoltano da tutte le parti, per cui se vuoi un po' migliorare male a lunghe distanze, ma qua in città a Puglia ce n'è per i pulci, dopo il 9 il segnale è tutto in più. Infatti io non sento Alghero, per esempio, Porto Torre, tutte zone che sono, se non c'è l'antenna libera non le sento. Muros, per esempio, mi arriva bassissimo qua, io non capisco come fa a darmi dei segnali lui da 9.10, 9.15, io qua lui arriva un segnale di 1, poco fa 1.5 che stava pompando. Addirittura, sanissimo quello lì. E che antenna c'è tu, la Game Master c'hai? Quella costruita a canna da pesca, dai. È strano, ma va meglio in trasmissione quella lì che in ricezione, è strano. Io non ho mai avuto modo di provarla, per cui non posso giudicare. Io ho la Mantova da sempre, ne sono soddisfatto. Sia bene che in trasmissione, cioè sono i segnali si equivalgono, perché ci sono delle antenne che magari vanno un po' meglio in trasmissione e un po' peggio in ricezione. Invece in questo caso la Mantova è abbastanza equilibrata. È troppo forse influenzabile dalle condizioni di installazione, magari quella che c'hai tu. Beh, tu conta che l'antenna parte dalla mia finestra e arriva sotto il cornicione, dai, del piano che ho sopra, ho solo un piano sopra di me, quindi non sporge dal tetto. Cavolo, importante, quello influisce parecchio sulla distribuzione dell'onda di trasmissione, dai. Ok, vediamo Tonino, anzi facciamo un attimino un secondino di bianco, se non entra nessuno riprendi tu Tonino, vai. Quanto pare, no? Niente, ho messo mia potenza, ho messo 4 watt comunque, già adesso ho fatto lo stesso, dai, anche se sono piccolino piccolino. Sempre 9 più 15, hai perso da 9 quasi 25, se c'è da 9 più 15. Già va bene così, allora... Va bene, dai, oh, io devo prepararmi la cena, signori, quindi detto, ci siamo altri 10 minuti, non di più. Ok, buon proseguo, guarda me, fate sentire più spesso, stammi bene, buon proseguo, ciao Franco, eventuale ascoltore. Alle prossime, buon tempo da parte mia, ciao ciao, ripeto me. Ciao Tony, ben sentito, dai, non ci sono problemi, quando capita ben volentieri e con piacere ascoltate. Ok, buona carica, se vi fa la buon tutto e buon proseguo di serata. Vai Franco, a te. Sì, capa, ciao, allora Tonino, ben sentito dopo tanto, ti auguro una buona ripresa, allora alla grande, ci sentiamo le prossime, avanti Robè. Ciao ciao. Ok, cosa volevo dire? L'apparecchio che sta utilizzando, ricorda cos'è, un Ranger, se non sbaglio, Franco. No, sto usando il Samurai. E l'altro qual è quello solito che utilizzavi tu? È il gemello, è il Super Galaxy, che sono uguali, dai. È che esce con una ventina di watt in AM, questo esce. Vabbè, adesso questo l'ho portato a 5 watt per pilotare l'Alfa Lima, là. E questo come si chiama? Samurai, ma è un base, per fare base? No, no, è tipo il Superstar, il Pluto, quella serie lì, però è tutto cromato e ha i canali, c'ha 6 bande, dai, ABCDF, poi c'ha CW, FM, AM, USB, RCB, clarifier, frequenzimetro, canali a destra, il solito, vai. No, no, sta usando benissimo. Il microfono cosa c'hai tu? Qui io uso sempre lo Shure. Un bel microfono, bella modulazione, chiara, pulita, limpida, come piacciono a me, senza effetti strani, rimbombamenti, ecco, la classica voce che deve essere in radio, pulita, senza distorsioni e senza echi e riverberi vari, soprattutto in città, perché in città non ne va nulla, quando ti devi far sentire magari in macchina o in camion, quando ci sono delle montagne e cose del genere, l'eco ci vuole perché ti ripete la voce, magari in certi punti quando si attenua, riesce a, ma qua in città, io dico, se abbiamo possibilità sentiamoci sempre al meglio, poi ognuno è libero di uscire anche con un megafono o con una trombetta, poi sono problemi suoi. No, anche io la penso così, mi piace una modulazione semplice, senza frondoli, è tipo come c'è tipo Marco Condor, mi piace molto la modulazione di Marco, di Luca, anche Luca Del Monte, c'è molto bene. No, ma io l'ho detto, dei baracchini, quella di Luca è una delle più belle in assoluto, e poi è sempre la solita, io da quando lo conosco a Luca con quella radio lì è una bomba, il laboratorio quel Pluto esce che è una meraviglia, con un microfono da palmo esce che è una meraviglia, pulita, chiara, poi a qualcuno gli piacciono gli effetti disco music, quello è un altro discorso, lo accetto, però molte volte devi dire cosa hai detto, ah aspetta non ho capito, abbassa la voce qua, là, e poi io sono di quelli, una volta che tu hai trovato l'abbinamento giusto, io questa radio ce l'ho da tantissimi anni, col microfono suo non mi vede mai Duke Andy, per me può capitare qualche volta riesumo qualche altra radio, però sono sicuro che esce bene con la radio perché avrò trovato il giusto abbinamento col microfono, però non mi piace stare sempre modificando e facendo, che poi è come una macchina, tu non ti hai comprato una macchina, va bene il motore, le gomme sono quelle, eccetera eccetera, magari in bocca a mettere altre cose e modificare, così è l'apparato, se una volta hai trovato l'abbinamento basta, poi magari lo puoi alternare con un altro, però sempre trovando l'abbinamento più efficace, più, cioè migliore, dai. Ecco 10. Capa, ciao Gianni, sì, registrato. Ma no, anch'io la penso così. Vabbè, non ho poco da scegliere, solo questo. Più il palmare, quello da palmo, l'originale, dai. Avanti Gianni, se non sbaglio. Ciao Franco, buonasera. Cazzo, proprio sgamato al volo. ci sentiamo poco, la verità è anch'io sto andando poco. Tu pensa che tu sia nelle mie condizioni. Quando entri a volte ci sono anche importantissimi, che te ne passa anche la poca voglia che hai. Cosa vuoi fare? Avanti ancora per i saluti. Sono in compagnia di Roberto. Ehi, ciao Roberto, buonasera. Io ho acceso così a strappo, tipo motosega. Ho acceso il botto, quindi ti ho sentito e sono entrato. Bene meda. Ciao Roberto, avanti, riprendi. Ehi, ciao Gianni, ben sentito anche a te. Ogni tanto ci sento di sfuggita, però dai, già ci sentiamo, è importante sentirci ogni tanto. Probabilmente è a coso, a Franco, tu l'hai sentito anche se sta accendendo il baracchino, ti ha modificato l'intensità luminosa delle lampade, visto che arriva a bomba già qua, figurati da te. Vabbè, già siamo vicini, dai, quindi... arriva bello pompato, dai, forte e chiaro, poi modulazione super, Super 5 Turbo. Non ricordo la Super 5, era la macchina ammita dai ragazzini dei nostri tempi, dai. No, adesso ho spento tutto, sto uscendo con i soliti 4,5 o 5 watt, dai. Bene, oh, io. E io entro ogni tanto, non sempre, che ho delle cose da sbrigare, un po' delicate, quindi devo prestare attenzione lì, poi ogni tanto già mi capita di entrare, dai, avanti Roberto. Ehi, no, la Super 5 Turbo e la 1 Turbo erano le cosiddette bare a quattro ruote, c'è un sito su Facebook, un gruppo di amanti, diciamo così, si intitola proprio bare a quattro ruote, c'è in copertina c'è la 1 Turbo e la Super 5 Turbo, è una macchina un po' pericolosina, dai, troppo leggere, con gomme molto limitate e motori esorbitanti. Sì, ricordo, io ho avuto l'ebbrezza di provare il turbo diesel, che non era come la benzina, comunque camminava parecchio, per essere un 1.3 era un missile di macchina. Sì, c'aveva 65 cavalli dell'epoca, c'aveva mio fratello, l'ho usata tante volte, era uno dei primi turbo al mondo di dimensioni così limitate, di cilindrata, perché tutti gli altri si parlavano di cilindrate molto più alte, era molto spinto, un motore eccezionale, che poi c'è stata l'evoluzione, poi si è arrivati adesso i nuovi multijet, eccetera, eccetera, però come base di partenza era quello il motore, un ottimo motore, una scheggia, e se la giocava con la Golf GTD, che era 1.6, c'aveva più o meno gli stessi cavalli, ma in accelerazione se ne andava la 1 turbo diesel. La Golf magari in velocità pura era un po' più veloce perché c'erano i rapporti più lunghi, però in accelerazione schicciava forte con la rapportata all'epoca, naturalmente adesso ti metti a ridere quando senti quelle potenze. Io mi ricordo una volta entravamo da Cagliari, guidava all'epoca la mia fidanzata, gli ha detto mi non farla passare, era una Golf turbo diesel perché era un po' veloce, perché se passa ti sollevano che piede ti stacca il vetro. Oh, non l'ha fatto passare, fidanzata l'ha tenuto dietro. No, ma io me la ricordo, c'ho un bel ricordo di quella macchina, magari le gomme, come dicevo prima, erano di dimensioni molto limitate, erano i cerchi da 13, diciamo, era un po' limitata come macchina, però camminava, già si faceva sentire, poi c'era quel fischio della turbina, me lo ricordo, che poi la macchina era nata aspirata, aveva montato il motore 1.3 turbo diesel, allora si poteva fare perché non c'era evasione fiscale, nel senso adesso se tu cambi i cavalli, prima era in base alla cilindrata, il mollo, adesso lo fanno in base ai kilowatt, è tutto diverso, ma parliamo negli anni 80, non succedeva niente, al limite potevi incorrere con qualcuno, si poteva dire questa macchina non è nata così, però la scocca era nata per sostenere il peso di quel motore, per cui a meno che non trovavi proprio il pignolo, ma camminava un bel, e poi c'era quel fischio con la turbina, proprio Maria, mi ricordo quando sono andato fuori, sono andato la prima volta a Posada con quella macchina, poi mi sono fermato al distributore, quando l'hanno vista, dice, cacchio, questa macchina, siccome era una 1 diesel normale, col motore turbo, tutti guardavano, cacchio, questa macchina. No, anche io ho ottimi ricordi. E poi no, non consumava nulla, cioè consumi i risori. Allora, comunque vi devo salutare, che qua mi chiamano per fare la cena, e un abbraccio a tutti e due, da Roberto e a Gianni, vi lascio alle vostre rispettive compagnie, dai. Riprendi Gianni, buonanotte e buon tutto a tutti. Buona carica, buona carica, ci sentiamo appena possibile, appena accendi la radio, avanti Roberto. Ehi, ciao Fra, ben sentito, sempre un piacere, dai, quando capita ben volentieri, buona carica e buon tutto, ciao, avanti di nuovo a te Gianni e cerchiamo di trovare una conversazione interessante. Un altro paio di passaggi, 5-10 minuti e poi devo staccare anch'io. Niente, cosa volevo dire? A proposito, la 1 turbo, vabbè, quella non era turbo, era aspirata, però era una delle famose macchine anni 80, il Peugeot 1009 iniezione, GT. Quella era una bomba, quella macchina lì, quella sì che era proprio una cosa allucinante, era una delle migliori, forse la più equilibrata come prestazione, perché c'aveva già le gomme da 15, un motore esorbitante, mi pare c'aveva, non vorrei dirti una fesseria, ma mi sembra c'aveva 110 o 130 cavalli quel motore lì, 1009, ma era una bestia, lo usavano anche per fare, per gareggiare, la usano ancora nelle gare turiche, è una di quelle macchine tipo la Peugeot, l'altra, la piccolina, la 106, quella GT, non so se la conosci, la piccolina, lo stesso la usano tanto nelle gare perché sono molto maneggevoli, piccole, corte e maneggevoli. Beh, saluto a tutti. E Antonio. Ehi, a capo, vi devo lasciare perché devo cucinare, cioè ci sentiamo dopo. Ciao, sono appena ritornato a casa. Ehi, Cianto, dai, buon tutto. Vai, Gianni. Ehi, ciao Antonio, buona carica anche a te. sì, è la 205, sì. Poi c'era la 106, bianca, era uscita bianca con i fregi, con le righe rosse e blu sui fianchi. Mi sembra la prima versione era denominata Rally. Poi non so come l'avessero chiamata in seguito. Poi c'era, se ti ricordi, la Citroen AX, la prima versione che era, come si chiamava, la prima versione, quella un po' più spinta, poi dopo la prima è uscita la GT, però la prima non mi ricordo come si chiamasse. Sì, poi i Peugeot e Citroen sono uguali, erano antagonista, come dire, Fiat Lancia, era il mercato, diciamo, più economica la Citroen normalmente rispetto alla Peugeot come cura di rifinitore, ma erano delle schegge, quelle macchine lì camminavano che cosa amara. Poi quando c'è stato il boom dei rally, che c'era Turbo 16, la Peugeot e così, mamma mia, ogni bestia di macchina. Ecco, avanti. Ecco, ciao Roberto, ciao Lubrefetto, allora, buonasera a tutti. Ehi, ciao Massimiliano, ben sentito. No, stiamo raccontando di bombe, Mare a quattro ruote, tu ne hai conosciuto? Sì. Mare a quattro ruote, c'è un sito dove ci sono queste macchine qua, uno turbo, Peugeot 206 GT, la Super 5 Turbo, macchine pericolose dell'epoca. La 1 Turbo che camminava un bel. Lì, stavo dicendo quelle macchine però erano sottodimensionate come gommatura e come freni. Io c'avevo questo amico mio, ne ha avuto due di uno turbo, tutti e due preso fuoco, c'era un problema di tubicini, scaricavano la benzina, buttavano sulla marmita a piglia dovunque. La prima gli hanno cambiata in garanzia, non aveva neanche un anno, la seconda se l'ha dovuta pagare lui, perché erano ancora carburatori quelle, le prime. Poi hanno fatto il coso, l'iniezione elettronica. Sì, no, già li ho conosciuti anche io le macchine, ci ho già viaggiato sopra quelle macchine. Avanti, Roberto. Eia, pericolose. Poi mi ricordo anni fa c'era un tipo che girava al centro storico che aveva la Visa Rally, non so se l'hai conosciuta, Roberto, aveva praticamente le bombature sui parafanghi, adesso non mi ricordo se fosse in plastica o vetroresina, col piccolo spoilerino dietro, e questo tizio aveva un buon impianto audio, cazzo, poco zuccava. Sì, sono Visa, è una macchina anche abbastanza rara, la Rally già c'era, non sapevo qua ci fosse a Sassari la Rally, a meno che non si era già Battaello, perché è una macchina abbastanza quotata, l'hanno fatta anche la Parigi da Carra a corso quella macchina lì, per dire, vabbè, erano più che altro per sponsorizzare il tipo, il modello di macchina, ma anche poi c'erano, prima di quelle della 1 Turbo c'erano i 112 Abarth, i 127 Abarth, i 127 Sport, a Vuglia che venivano le macchine, la Ritmo Abarth non ne parliamo, la 125 prima che hanno fatto anche la 1605, poi hanno fatto la 2125, la prima serie di Ritmo, e poi hanno fatto la 130 Abarth, sono macchine che adesso sono quotate 15.000 euro, prima ti mettevi a ridere, adesso sino a 10 anni fa, ti vanno a gagliare le macchine, vai e comprala adesso una Ritmo Abarth. Poi se vogliamo salire ci iniziamo dalle Lancia, dalle Delta, dalla HF fino ad arrivare all'Integrale. L'Integrale, l'Evoluzione 2, l'ultima che hanno fatto, quella larga, quella lì è arrivata, cioè la Martini, la versione ufficiale, a 150.000 euro. Giacosciani, io mi ricordo tanti anni fa, cioè stiamo parlando degli anni 80, quando la Matterland si piazzava lì dove c'era il campetto dell'ex brigata, lì nelle vicinanze, non so se ti ricordi, parcheggiava sempre un Alfa 75 turbo evoluzione arancione, non so se ve la ricordate. Eh certo, anche quella è una bella macchina, quella è una grandissima macchina che vale un sacco di soldi, credo che era la loro, la rossa era evoluzione, quella c'era l'alettone dietro, bella macchina, una grande macchina, trazione posteriore, poi quella lì, una, l'ultima Alfa trazione posteriore. Vai Massimiliano. Sì, io sono qua, mi sto ascoltando, vai. Però c'era anche, oltre che la Ritmo Abate, c'era anche la Ritmo 130 che, era, che camminava un bel. Infatti sto dicendo, allora, la Ritmo Abate è iniziato la prima serie, quella con i paraurti con i faccioni grandi, integrati i fari, eccetera, si chiamava la Ritmo 125 TC, cioè perché c'era la bialbero, poi hanno fatto l'evoluzione, il modello successivo, la nuova Ritmo che hanno cambiato le maniglie e un sacco di cose, però la scocca era uguale, e si chiamava 130 Abate, e poi c'era la 1605 TC di 105 cavalli, che per l'epoca erano un sacco di cose, la macchina, stiamo parlando di macchine a carburatori, non erano macchine turbo come adesso, che adesso un diesel, un 2000 no, non c'ha meno di 130 cavalli, un diesel, figurati, prima stiamo parlando di macchine con un 2000 a tirare fuori 130 cavalli da un motore aspirato, era una cosa esorbitante. Infatti, no, ma adesso vedi bene che anche le macchine 1500 di cilindrata sono intorno ai 110-120 cavalli, quindi adesso sono motori molto, diciamo che il diesel è quasi alla pari della benzina, ecco. Sì, sì, è vero, ma adesso i diesel, a parte che girano molto di più, le costruzioni, i materiali di costruzione sono molto più, come si chiama, le tolleranze dei materiali sono molto più precise perché tirano fuori, la resa poi dei sistemi di iniezione è molto, ma molto maggiore rispetto a 20 anni fa. Io mi ricordo quando era uscita la 164, è stata la prima macchina al mondo diesel, arrivare a portare a 2004 il motore, arrivare a 200 km orari, poi dici, cacchio, quella macchina fa 200, allora una multipla fa 200 all'ora e ce l'ha anche. Per dire, c'ha 110-120 cavalli. Infatti, gappa gappa, avanti Lubroffè, cioè Lubroffè. Oh, yeah. Sì, poi vabbè, adesso mi sto ricordando sempre quel periodo lì, era la macchina di che aveva la pizzeria, la Renault 5 Turbo, col motore centrale posteriore, adesso mi sfugge il nome di chi ce l'aveva, non so se ti ricordi, Robè. È quello che mi ricordo, se vi racconto la storia di quella macchina, io ho riscatto la morte il giorno, Santo Deledda, il ristorante da Santo, oggi come si chiamava, Vaffan Napoli, in viale Aviamendo. Sì, sì, è lui, me la ricordo, era grigia e blu se non sbaglio. Robè, un attimino, mi ha chiamato mia moglie, devo scendere giù, riprendo subito. Eia. Era grigia e blu quella macchina, se non sbaglio, Roberto. Era tutta di un colore, era un celestino chiaro, quasi grigio. Tipo un celestino anfio, roba del genere. Ehi, hai detto bene, quella lì era motore centrale, motore 1700 turbo, c'aveva 180 cavalli, è una cosa allucinante quella macchina. Lui correva, ha fatto dei Costa Smeralda, ma era, bisogna saperla portare. Quella era una trazione posteriore con motore centrale, con le prese d'aria posteriori, tutta in resina era. Si chiamava R5 turbo, ma era bestia di macchina, io ero innamorato di quella macchina lì, però era una macchina che bisognava saperla guidare, lui ogni accelerata gli si girava di traverso. Già me lo ricordo quando sganciava. Poi un'altra macchina che mi è sempre piaciuta era, vabbè, mi sembra che a Sassari ce ne siano un paio, uno o due, il 131 Abarth. Chiacchierata di 6 punti lì, un'altra di quelle macchine dei miei sogni, bellissima. Allora a Sassari ne abbiamo avuto due di quelle macchine lì, ce n'è un'altra a Osilo, c'era quella di Coso, di come trattato di Roma, come si chiama, Ivo, mi sembra, uno Ivo e l'altro non mi ricordo, che ci avevamo messo il motore 2000 della integrale dentro, ce n'era una blu, azzurra, dai, bellissima, stradale, la maggior parte però erano ex macchine da corsa, quella di Coso era bellissima, e poi c'era una rossa, forse c'è ancora rossa. Io mi ricordo la blu, poi avevo visto anche la rossa da un'altra parte. Sì, sono, quelle mi sembra che siano le versioni proprio stradali, quelle fatte per l'omologazione. Bella macchina, mi è sempre piaciuta, nonostante sia squadrata, però ha sempre il suo fascino. Cacchio, bellissima macchina, colpiva perché era a quattro sportelli poi con la macchina lì. E poi io ho visto c'era Sassari, non so quanto l'abbia potuto vendere perché c'ha delle quotazioni fuori dal mercato, la 037, te la ricordi tu? Sì, la 037, vabbè, chiamata Beta Monte Carlo, poi 037 per... Sì. No, aspetta, non confondiamo. Beta Monte Carlo è una cosa, grandissima macchina, bellissima. 037 era la macchina che ha crepato a tutti nei rally. L'ultima macchina, trazione posteriore della... non posteriore, scusa, trazione anteriore della Lancia che ha crepato le Audi, che erano già integrali, prima di arrivare l'S4 che ha crepato a tutti. Questa qua era di quello della Lancia, il proprietario della Lancia era rossa, stradale, ne hanno fatto mi pare 500 esemplari nel mondo di queste qua, comprese quelle che hanno corso, per cui non so quante ne siano rimaste, rossa, immatricolata a Sassari. Io l'ho vista sotto il telone, cosa ho detto, quando l'ho vista me ne sono usciti gli occhi, non so se questa macchina esiste ancora a Sassari o se l'abbia venduta. Una stradale 037 è una cosa, come per dire, ma è un, non lo so, un Rolex buttato nel mare, più raro trovare quella macchina che trovare un Rolex nel mare. Sì, vabbè, lo so anch'io la differenza della... cioè comunque praticamente 037 è il nome del progetto, comunque il nome è quello Beta Monte Carlo, che poi si è uscita la macchina Rally, quello lì è un altro discorso, comunque sì, sono due cose completamente distinte. Comunque se vai a cercare la dicitura originale Beta Monte Carlo, poi terminata Lancia 037 per via della cosa Rally. Sì, ogni tanto qua su YouTube già ogni tanto ci sono diversi canali, c'è un canale che fa dei video veramente molto molto belli, curati, proprio sono dei professionisti, adesso non so se sono inglesi o americani, vanno a scovare artigiani, possessori di macchine veramente particolari, adesso non mi viene il nome del canale, comunque video eccezionali, bellissime riprese, proprio cinema come si tocca. Sì, no, 037 va bene, è la derivazione della Beta Monte Carlo, però l'hanno allargata e hanno messo un copertino in resina, perché era tutta in resina, però diciamo la base, il pianale della Monte Carlo l'hanno allargato e allungato per farci stare il motore dietro, e dopodiché hanno fatto, no, forse era ancora davanti, no, scusa, sto dicendo fesseria, la 037 mi sa che il motore c'era ancora davanti, l'S4 c'ha il motore posteriore, però è la trazione integrale, l'S4 non ne parliamo, ci siamo dimenticati poi la più bella macchina, una delle più belle macchine del mondo in assoluto, e soprattutto con la portata all'epoca, la Lancia Stratos, te la ricordi? Sì, vabbè. quando veramente era un piacere vedere le macchine passare, avanzo tutti i precisi, pacari dai, no, veramente una boccaria, sono cazzo veramente uno schifo, vediamo se è entrato Massimiliano, ma sì, ci sei, no vabbè, adesso un altro paio di passaggi e vado via, vabbè, una macchina che mi è sempre rimasta nel cuore è l'Alfetta, non so cosa ne pensi. Una grande macchina, perché i GT schifo ti fanno, tutte le versioni, dalla 1003 Junior, sino ad arrivare alle due, tutte le ho provate, sino ad arrivare alla 2006, che ce n'era una, Sassa, e poi l'hanno presa, buttata, rimasta buttata per tanti anni, adesso sono ammasso di ruggine, era del nostro medico di famiglia, e a Capocaccia, c'era la villa di lì, perché poi c'erano i bulli, pagavano, allora si pagava tassa di possesso, anche se non la utilizzavi, la pagavi comunque, alla fine l'ha lasciata a macere lì, con gli interni bianchi, era color melanzana, con l'interno in pelle bianco, gli attaccatali elettrici, era una cosa da vedere con la macchina. Sì, una bella Alfetta blu, 1008, mamma mia, sì, belle cose. Mi ricordo sempre tantissimi anni fa, in via Umberto, dietro il palazzo della provincia, c'erano le macchine della prefettura e mi ricordo che avevano l'Alfa 1750 e l'Alfa 2000, non so se ti ricordi, una mi sembra che fosse grigia e l'altra azzurro metallizzato. La prefettura normalmente ce l'aveva blu e poi c'aveva le Fulvia, prima di quello abbiamo fatto una, c'ho un amico mio, la Fulvia 2000 della Lancia, e sempre la prefettura con le tendine dietro, era del prefetto per uscire, poi hanno portato anche le Alfette, cavolo, Alfetta, grande macchina, bellissime macchine, poi c'erano le versioni sportive, le GTV, non ne parliamo, quelle le hanno fatte 2005, 2000, 2008, bellissime, mi sembra dal tocco mi sembra che sia entrato Claudio. Hai toccato bene, Sì, vedi, io avevo l'alfetta, quando ero a casa di mia madre, l'alfetta bianca, quadrifoglio oro, 2000, gran bella macchina. E l'avevo data, sapete per comprare che cosa? Perché mi affascinava questa macchina, che camminava a tre ruote e si sollevava tutto. Il GX Palace della Citroën. Chissà quanto mi divertivo con quella macchina. Buonasera a tutti! Ciao Claudio, ben entrato, stavamo rifacendo vecchi ricordi di fare macchine, almeno a casa c'è. Adesso me ne è venuta in mente un'altra. Esetta. Grazie, roba. Sì, vabbè, a me l'alfetta mi è rimasta nel cuore. Cioè, poi praticamente le forze dell'ordine si sentivano da lontano quando arrivavano, tiravano le sgasate e cazzo si tiene a 200 metri. Gran bella macchina, ma dovevi stare attento, ho già se ti ricordi, perché la trazione posteriore col bagnato ti si vulturava, ti si girava. Mi sono divertito con quella macchina. Grandi divertimenti, bei tempi, ricorda la giovinezza, stavamo anche con quel Citroën GX Palace, una macchina enorme, mi divertivo, però eri ragazzino, va bene. K di Rogero, chi c'è? Solo tu e Roberto? Sono rientrato. Avanti Roberto. No, scusate, ero al telefono un attimino. No, sono rientrato. No, stavo rapportando di macchine, meno male. Ieri ho visto qualcuno di male, perché non so se l'avete conosciuta, ce n'era una verde a Sassari, c'ho ancora un pezzo di quella macchina lì, e ce n'è rimasta una arancione, la Montreal dell'Alfa Romeo, una grande macchina. Cazzo, la Montreal dell'Alfa Romeo ce l'aveva mio padrino. Gran bella macchina anche quella. Ma in quei tempi ce n'erano macchine belle. Io, grazie a Dio, già ne ho avuto. Ne ho portato di macchine belle a quei tempi. Io l'unica macchinetta proprio iniziale che ho avuto, la 126, poi avevo comprato la DN6 da Enrico Confalonieri. E anche quella era divertente perché d'estate ero sempre senza cappotto. Tu immaginati, ho già. Una sera tardi siamo rientrati, eravamo in quattro gli amici, li ho accompagnati a casa e io ho parcheggiato a casa di mia madre via Cavour, al centro storico di Porto Torres, l'estate pieno, e ho lasciato la cappotta che si metteva tutta bene dietro con i suoi lacetti eccetera. Mi sono guardato lo manzano per andare a travagliare e menare in biera di butti di mondezza. E cosa ne hai pigliato? Un cassonetto? Cazzo, che c'è quei bastardi di quelli vicino che mi avevano fatto apposta. Io ci tenevo tantissimo, era pesce nuova, ci tenevo tantissimo, cazzo, ma l'hanno riempita e buste, ma Mondessa di gas, ben chiuse, sai, non oliose eccetera, ma questo era un fiagro manzano, che c'era una busta, mi ricordo come oggi, che sicuramente avevano mangiato pesce e roba del genere, e meno male l'avevano messa, perché sono stati attenti a non sporcarmi i sedili, l'avevano messa nel tappeto del lato passeggero, sai, quei sedili, poi senza marce, c'erano le marce su in alto, quindi c'era molto spazio. Meno male tra i sei ultimi non destra, in casa tu l'ho preso il giorno, ho detto mamma, se so chi è, stai attenta perché c'è il bideggio, ma parlo con fra tua, che ti va, tu andavo a fare, cazzo mi sfocca la cera, ma chiamo fra nuova, ci tenevo, che era una cosa allucinante, E infatti da lì, estate, inverno, come rientravo, tappavo tutto, cappotta, capito, perché allora non c'erano garage, non c'era niente, poi mamma l'aveva fatto il garage, avanti Roberto. Ok, allora la macchina è detto bene, divertente, ma se no ti viene un mal di mare con quella macchina, se inizia a fare strada a curve, quello che si siede vicino ne escono gli occhi, così il coso, due cavalli, beh giù che mai, il Charleston, l'R4 magari era meno oscillante, però ti ripeto, a me le Citroën non è manco il regalo, le vorrei, sono carine, qualcuna ne hanno fatto, tipo la DS, la Cabrio, che vale una barca di soldi, la DS Cabrio, però non mi sono mai piaciuta come macchina. Sono macchine e motori più che bene, però non è per i miei gusti. Quando parliamo di Alfa parliamo di macchine, non di biciclette. Ok, e poi vabbè, cosa c'era? Poi è andata a finire, ha fatto i soldi, Claudio si è comprato l'Audi. L'Audi è una delle, c'avevo il Volvo prima, il V40, sempre Station Veio, ah, ne ha avuto tantissimi. Audi è, mi pare sia la penultima, forse la penultima. Sì, viaggiavo a Perfuas, quindi era l'Audi A4 a trazione integrale, gran bella macchina anche quella, ma anche il V40 Station non era male, gran bella macchina anche quella. No, vabbè, guarda, proprio perché hai detto non i gastirocci, una volta scommessa, non so se tu sei pratico di Porotolosi o Gianni, no? Dove c'era la discoteca, la Club 24, lì proprio all'inizio del lungomare di fronte al porto, c'era questo mio carissimo amico, dice, io a chi arriva prima a barare, ha detto, mica tu vai una lancia, l'ha detto, ti c'è bedegge, io non ho problemi, perché questa non cappotta, tranquillo che non cappotta, mica si è appoggiato un amico mio, si è seduto con questo mio amico che ha iniziato a fare le curve dello scoglio lungo dell'auto, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, e arrivato alla rotonda dei barai, una cazzata di sei beni. Avanti già. Ragazzi, io mi hanno chiamato, vi devo lasciare, dai, ne approfittiamo la prossima volta per ricordare altre macchine, dai, grazie della chiacchierata, dai, ci sentiamo appena possibile, ciao Roberto, ciao Claudio e tutte le orecchine pelose, dai, ciao ciao. Eia, ciao Gianni, poi parliamo di moto che tu sei più pratico la prossima volta, dai, buon tutto, vai Claudio. Ciao Gianni, ehi, anche a moto già siamo stati bene, dai, allora si poteva fare, ciao, buonasera, buon tutto, caro Vita Roberto, ciao, ma te lo bisogno più con te, te l'ho detto io di non venirci, Ghita è un'altalena, non è una macchina, No, Cla, mi sa che ti stai confondendo, tu l'Audi ce l'hai avuta prima della Volvo. Oh, ma aveva lasciato un po' di bianco. Oh, muccolo, ma lo sai che hai ragione? Sì, sì, l'Audi e poi l'ultima era la Volvo, quella verde metallizzata, sì, sì, il V40. Sì, che l'ho venduta e avevo comprato due Smart, una a me e una a mia figlia. Sì, sì, avanti ti. Ciao, buonasera, sto provando un'altra radio, mi date un controllo per cortesia e poi vi faccio un passaggio con un amplificatore attaccato, mi dite se è distorto o meno. Allora, così sei Santiago 9 e la radio 5, prova a attaccare. Ciao a tutti comunque, eccolo qua, guarda c'è cambiato la modulazione e com'è, vedi un pochino se va in saturazione, se ritorce e quant'altro. Sì, leggermente saturina, leggermente cupa, vai da 9 a 9.20 da me, Roberto. Vabbè, da 9.10 a 9.20. Bene, aspetta che ho abbassato di un altro, guarda un po', ha cambiato? Adesso è chiara la modulazione, il segnale è calato di un pelino. Bene, ti ricordo l'altro segnale, Cla? Guarda, è poco più di 9, diciamo 9.5, da 9.5 a 9.20 da me, vai. No, no, con un altro amplificatore stavo dicendo, l'altro segnale che avevo prima di questo. Non me lo ricordo perché siamo alla moto, non facciamo queste prove con quegli amplificatori lì che è tutto. Non me lo ricordo, ma non vorrei sbagliare, ma siamo lì, siamo lì, se ti ricordi mi pare siamo lì. Boh, vabbè, comunque mi confermi anche tu Roberto che la radio non è sporca, non è gracchiante, dai, diciamo che sto andando intorno ai 110, non di più, No, no, ti ascolto perfettamente, questo passaggio è perfetto, ti riconfermo il segnale, poco meno di 9.20, la radio è pulita a 5. Dai, se mi date due secondi attacco anche l'altro, così facciamo un paragone, perché io credo che questo qua dovrebbe dare un pochino di più, però... Non lo so, qua c'è più o meno come il segnale che ti ha dato Roberto, io sto andando con Galaxy, è abbastanza preciso, prova, vediamo un pochino. Va bene, datemi il tempo di andare dietro, staccare e attaccare l'altro, ok. Ma parità di potenza? Sì, sì, parità di potenza. Vediamo, c'è quello là, magari la modulazione te la tiene più chiara, proviamo. Infatti voglio provare quello, ragazzi. Questo è un po' più grande, però non lo so, vabbè. Certo, ho capito, fammi sentire l'altro. Robby, a me mi senti sempre bene, sì, no, non distorce niente, il segnale è buono. No, te devo attenuare io, ti sto attenuando di 20 dB, se no sei troppo forte. Sempre col grande? Con il 44 sono. Ah, non c'ho niente roba attaccato. Niente di niente, staccato tutto, tutto dentro l'armadio, sto andando col Galaxy, 10 watt, 12, 13, dai, più o meno modulati. no, non va forte il segnale, devo abbassarti un pochettino, con l'altro non ne fa vedemmo, l'altro ti devo tirare fuori 30 dB, perché se no mi spacchi lo stile, non perché distorce, non distorce il coso, devo abbassarti, se no saturo con il 44, con il 44 invece non distorce, però mi grebbe lo smitter, me ne va oltre il limite. Mi è strana diventata col 440 tuo, era sempre perfetto, non mi hai mai detto nulla, mi dicevi sempre 9 più 60, però mai hai attenuato, non so se ti sei serrati. Boh, non lo so, forse con l'altro tipo di radio è più stretto come modulazione, non lo so, con questi baracchini forse, non lo so, non riesce a tirarli bene fuori, allora devo attenuare un pochettino. No, vabbè, non sto dicendo del radio, sono normalissimo, c'ho un Michigan a 1 e il Tame più 3 a 1, quindi no, non è un problema. No, come segnale sto dicendo, perché mi devi abbassare di segnale quando prima non avevamo questi problemi? Io non ne ho con te di questi problemi. Sul K sei 9 più 60, qua sei sopra la D del DB, praticamente quasi fondo scala. Bene, non lo so, forse quel tipo quando riceve i baracchini, magari è, non lo so, il tipo di modulazione devo abbassare, perché se tu usi l'altro, il K